Franco, mi alzi un po' il volume, non sento la base, per cortesia, grazie. A genovese. Cos'è la genovese? La carne. Cos'è la carne? Ma Franco, dai. Orau. Orau. Sì. No, orau. No, al mixer. E polpette. I 7 e mezzo. Ma no, il mixer. Domani. A carne. Ecco. I 7 e mezzo. Luisa. Luisa. Luisa. Luisa. Una volta che di te io non riuscivo a fare senza, per la fretta di vederti son venuto in ambulanza. Sei scappata dal retro e hai rotto anche un vetro. Oh, oh, oh, dammi ancora una chance. Quella volta che ti ho spedito 19 usato, posteggiato sul sacrato, non hai messo il disco orario, mi è arrivata una multa grossa come un santuario. Oh, dammi ancora una chance. Ieri sera ho fatto sì che ci invitasse a cena il Papa, ti sei dimenticata e hai cenato con tua zia. Poi le hai detto che mi lasci perché sono un tipo senza fantasia. Oh, dammi ancora una chance. Anzi, ti do ancora una chance. Anzi no, ti denuncio per vilipendio alle prove d'amore.